X24, la storia. Antonello Falchi è stato il più grande regista televisivo di tutti i tempi in Italia. Antonello era un grande regista della televisione. Ci sentivamo aristocratici perché effettivamente c'era tutto un altro livello, soprattutto nelle cose del tempo. Each morning I get up with the sun. Odio tutto ciò che è casuale, fortuitamente lasciato agli eventi fuori dall'orbita del pensiero. Sono le parole di Antonello Falqui, classe 1925, un gigante della regia televisiva. Oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia. Al suo nome sono legati i più grandi varietà televisivi, Studio 1, Canzonissima, Teatro 10, Mille Luci, Gian Domenico Fracchia, Dove sta Zazà, ma il suo nome è soprattutto sinonimo di qualità, di eleganza, di un perfezionismo rigoroso e maniacale. La sua è la storia di un artigiano del piccolo schermo, maestro indiscusso, che sembra non aver lasciato eredi. È una storia che attraversa il nostro paese nei suoi cambiamenti profondi durante gli anni del boom economico, un racconto che inizia con un cartello che ancora oggi suscita emozione, un cartello con scritto regia di Antonello Falqui. E buon divertimento! Regia di Antonello Falqui, sentire proprio questa formula, regia di Antonello Falqui, è come... come dire, un viatico per il divertimento, per una serata piacevole. Per me Bimbo era l'occasione di assistere ad uno show godibile, piacevole, pieno anche di signorine, per cui diciamo per me Falco è anche sinonimo di qualcosa di pruriginoso. La notte piccola per noi, troppo piccolina. Una tecnica di ripresa raffinatissima. Grande gusto, grande gioco di campi e controcampi, grandi movimenti di macchine raffinati. Beh, insomma, era un'altra televisione. Quattro stagioni indimenticabili tra il 61 e il 66, un programma che resta il prototipo inimitabile del varietà in televisione. È un sabato sera pieno di lustrini, di paillette, con l'orchestra dal vivo e grandi, grandissimi artisti, come in uno spettacolo di Broadway allestito negli studi della Rai di Roma. Classe, stile, musica, ospiti d'eccezione e la magia di Studio 1. Ce ne parlano Antonello Falqui e Lelio Luttazzi. Mi commissionarono uno spettacolo musicale, siccome allora si lavorava nello Studio 1, io lo chiamai Studio 1. Ed era uno spettacolo di varietà. Non è che avessi un'idea precisa. Studio 1 era avvantaggiato in fondo dall'essere in bianco e nero, perché tra l'altro ricordava i film di Fred Astaire e Ginger Rogers, di cui sia Falqui che io eravamo dei grandi ammiratori. Sì, forse questo smoking non sta molto bene a me. Questa è un'idea di Falqui che io tra l'altro approvo moltissimo, dare questo stile così degli anni ruggenti. Uno spettacolo piuttosto ricercato, piuttosto elegante, quindi un certo stile, questa è la nota distintiva, credo, dei miei spettacoli. Signore e signori, buon sabato sera. Benvenuti a Studio 1 Show, nel quale vedrete... Mina, Walter Chiari, Paolo Panelli, Lelio Luttazzi sono alcuni dei protagonisti dell'inedito programma. Ce ne parlano proprio Antonello Falqui e Lelio Luttazzi. Tutto questo senza alcun merito da parte mia, semmai, che poi non è un merito ma anzi un sacrosanto dovere, quello di aver conservato questo ruolo di capitano in seconda, di comandante in seconda sulla tolda di questa nave in balia dei venti infidi e anche di quelli propizi naturalmente. E tutto qui in questo momento. Luttazzi piaceva molto al mio padre, poi piaceva molto a me. Quindi presi un maestro di musica che era però elegante, spiritoso, umoristico e che non aveva le stima del presentatore. Io avevo una paura da matti e feci di tutto per fargli cambiare idea. E dice: guarda, c'è uno adesso, ed era Pippo Audo, che comincia adesso, che è molto spigliato. No, io voglio te. Caro Gino, ti trovo del solito buon, cattivo umore. Geniale, Paolo Panelli, pieno di idee, pieno di risvolti. Fra l'altro ha fatto la Catena d'Arte Drammatica, quindi era anche un attore di un certo peso. Quando la sera andate al pianicolo con la ragazza e state per baciarla, tremate, occhio ai busti dei garibaldini, occhio al colore, quello più scuro so io. Su, vieni qui, Milord. Noi dobbiamo molto a Falqui, perché lui ha fissato in maniera nobile, diciamo, quelli che erano gli schemi del mondo del grande varietà, però in maniera elegante. Scene di Cesarini da Senigallia. Per me l'accoppiata Cesarini-Falqui era il massimo della modernità. Era la scoperta di un mondo fatto anche di plastica. Le scene erano bianche e da quel fondale si stagliavano le attrici, Mina, gli attori. Era una scatola magica dove il pubblico a casa si sentiva quasi al Sistina. Mettiamoci d'accordo una volta per tutte. È inutile che fa di furbi, perché Cecconi Bruno è più furbo di voi. Il tipo di programmi che si fanno adesso sono programmi, non so come dire, facciamo passare 30 comici tutti insieme, uno per uno, poi qualcuno funziona, qualcuno meno, però così non nascono molto gli attori. Panelli faceva le cose, gli sketch televisivi, però faceva anche i ruoli, poi al Sistina faceva dei ruoli veri. Walter Chiari era un attore di cinema anche, oltre che di teatro. Voglio dire, era una generazione di attori, fondamentalmente di attori, che poi sceglievano magari il comico per un certo periodo. Avete sentito lo scenografo Gaetano Castelli e l'attore Gigi Proietti. Il primo vero comico televisivo italiano è Walter Chiari. A parola, comicità, bellezza ed eleganza. Ce ne parlano l'autore Enrico Vaime e Sergio Rubini. L'ultimo colloquio col mio, col nostro, col vostro Walter Chiari. TV7 arriva dappertutto, TV7 arriva, si informa, prende, non bussa neanche più, apre con un calcio la porta. Signora, siamo qua, TV7. Una signora scaramigliata, oddio, che c'è? Che è successo? Qualche cosa? Suo marito l'ha abbandonata 20 anni fa dopo 2 anni di matrimonio, sì? Ma come lo sapete? Lo sappiamo, signora, TV7 sa tutto. Su Mix24 con la storia di un artigiano del piccolo schermo, Antonello Falqui. Mix 24, la storia. Si aspettava il sabato sera, ma veramente con ansia, dicevo, chissà chi ci sarà, chissà cosa farà. Bentornati a Mix 24. Avete sentito Rosario Fiorello. Una delle chiavi del successo di Studio 1 è infatti l'ospite d'onore. Attori, cantanti, comici, sul palcoscenico di Antonello Falqui si esibiscono tutti i nomi più importanti. A fare da padrona di casa è lei, la donna che rappresenta l'incontro chiave della vita artistica di Antonello Falqui. Perfezionista, bravissima, unica e irripetibile, una ragazza di Cremona che inizia come urlatrice e diventa la più grande cantante italiana di tutti i tempi, Anna Maria Mazzini, per tutti Mina, come raccontano Antonello Falqui e Enrico Vaime. Mina è un personaggio insostituibile, non c'è niente e nessuno come Mina. È per sempre, sempre, sempre. Tanto bella, grande, intonatissima, provava, bastava una canzone, bastava farla una volta e lei la faceva immediatamente. Lei era diversa dagli altri cantanti, lei era molto intelligente, che non guasta. Aveva un grandissimo gusto musicale e il suo repertorio è merito suo, quindi era una fortuna avere Mina nella propria scuderia, perché era una sicurezza. La prima volta l'ho visto al Musichiere, dietro a ogni jukebox c'era un urlatore e dietro a uno di questi c'era Mina, che allora era considerata un'urlatrice. Questa sera vi voglio cantare una canzone d'ambiente giapponese, Beh, con qualche parola in giapponese. Nella gestione dell'immagine Mina era insuperabile, credo. Pensi che io gli davo dei segnali per terra dove lei doveva andare, ma lei non ha avuto mai niente a che dire. Era piacevole vederli lavorare perché c'era un affiatamento totale. Cominciamo, attento un po' che ti insegnerò a ballare. Molto pigra, però la facevo lavorare molto, li lavorava molto volentieri, amava le cose difficili. Avete sentito il direttore d'orchestra Gianni Ferrio. Mina pigra, capace, sex symbol, padrona di casa. Ce ne parlano Linea Wertmüller e Antonello Falqui. È una carica di vitalità forte. Certamente l'immagine della bella, della fatale, della straordinaria, dell'affascinante Mina l'ha costruita a fare. Signori, mi c'era una rubrica che si chiamava L'uomo per me. E Mina diceva: l'uomo per me di questa settimana è Totò Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman. Che fai la mattina? Che stai? Ah, come io sono ospite d'onore, oh! Sei grande, sei grande, sei una fagottata di roba, sei. Venivano a fare una prestazione e quindi provavano una settimana. Due mesi fa, in TV, ospite d'onore a Studio 1, Mastroianni si esibisce in un numero che è una presa in giro del suo personaggio. Bilancia con l'ironia l'etichetta di seduttore che gli hanno incollato addosso. Io andavo da loro anche un mese prima. Era un perno dello spettacolo. Adriano Celentano! Non mi dire di no. Celentano mi piaceva quasi quanto Mina, voglio dire. Dimmi di sì! Dimmi di sì! Come si muoveva allora Celentano era uno spettacolo e quindi l'ho usato molto. Senti, dobbiamo fare di, una... Dobbiamo fare una cosa... Sto dicendo! Ma non ti ricordi che tempi che... Quella chi è? Come Campola? Chi è? Quello con i baffi. Ehi! Stai lì, va! Mina quando stava con Celentano si divertiva come una pazza, rideva a crepapelle. In un solo momento. L'Italia del boom, l'Italia della ricchezza improvvisa, con il varietà di Falqui scopre il divismo del piccolo schermo. È uno star system nostrano che garantisce comunque una popolarità immensa. Anche nel varietà si tratta però di una televisione pensata, una televisione figlia di un progetto culturale, di un'idea forte di società e dell'uomo. Una televisione al servizio del pubblico, un pubblico da informare, da far crescere, da intrattenere e divertire con buon gusto e con intelligenza. Ce ne parlano Giovanni Salvi, vice direttore generale della RAI, e Antonello Falqui. Eravamo tutti convinti che ci fosse una ragione di divertire la gente senza mai strafare. Come io arrivai... capì che stavamo cambiando epoca. Bernabei è stato il più grande direttore generale che ha avuto la RAI. Era un fervente democristiano, ma non c'era nulla di Beghino in lui, né aveva nessuna pruderia. Tutto questo è avvenuto prima di Bernabei. Da Bernabei c'è stata una grande liberalità in tutto. Si arrabbiò solo una volta una barzelletta di Johnny Dorelli, letta da Johnny, bravissimo, sulla cintura, che finiva con Dio, ecco. Il solo fatto che fosse rammentato Dio al Teatro delle Vittorie per Bernabei fu uno scandalo. Lui rimproverava qualcuno prima di noi che andava a dirgli: guardi che ho risparmiato 50 milioni. E perché? Rispondeva Bernabei. capito? Perché dice, i soldi sono importanti se messi bene. Lo stazzista si creava facilmente perché, ripeto, il pubblico era enorme. Gli ascolti erano 22 milioni di spettatori, cioè mezza Italia. E quindi la fama naturalmente cresceva in proporzione a questo tipo d'ascolto, che era enorme. Oggi quando arrivano a 5-6 milioni già che gridano al miracolo. È un'Italia curiosa e non diffidente. Un'Italia più facile, come racconta la regista Lina Wertmüller. Gli italiani di colpo si sono trovati a casa nell'ultimo paesino sperso nelle montagne, in fondo alle valli, le più grandi star, le più grandi riviste, i numeri musicali, le canzoni. È stato un regalo di niente la televisione, ragazzi. E non mi lasci sola, ma sole non mi lasci. E Falqui è capace di scoprire talenti e arricchire lo spettacolo con elementi innovativi e attraenti. È la ribalta delle gemelle Kessler. Allora si facevano dei viaggi in tutto il mondo. Girando per il mondo si trovavano degli elementi abbastanza insostituibili che in Italia non esistevano. Sono arrivate a Roma le gemelle Alice ed Helen Kessler, due ballerine del Lido di Parigi. Lui ha visto queste due ballerine, queste due giovani, la potenzialità per portarle in televisione e sotto la sua guida farle diventare due star. Le favolose, magnifiche due, Helen e Alice Kessler. Ragazzi, le vidi per la prima volta al Lido, erano dentro questo spettacolo e cantavano una canzone aprendo e chiudendo il sipario. Erano due tipi importanti e io dissi al sacerdote, beh, se avessimo quelle due io credo che lo spettacolo sarebbe un grande successo. E proprio così ci rassomigliamo, tu prova a guardarci, vedrai che siamo simili, simili come due gocce nel mare. Le Kessler sono due strasventolone che hanno rallegrato il cuore degli italiani per 20 anni, o no? Abbiamo sbocconcellato qua e là le cose di qualità. Viva le gemelline, tutto bene. Scusa, Raimondo, sì. Ti vorrei parlare. Posso? Sì. Ti chiedo veramente scusa, un attimo solo. Prego. Sarò breve, brevissimo. Senti, ma tu stai esagerando. Perché? Stiamo reclamizzando le gemelline. Sono già brave, alte, belle. No, dico, esageri. Ah, perché poi magari poi ci oscurano. Già. Le Kessler sono perfette, belle, eleganti, professionali. Ce ne parla Helen, che ricorda così quei momenti. Noi abbiamo lasciato Lido con questa offerta di venire a Roma per una televisione, perché a Lido eravamo 5 anni, cioè eravamo anche un po' stufate. Non si può, Kessler, non si può! Ma cosa non si può? Ah, ma che siete? Voi non vi rendete conto? Mi siete zompati 3 volte sul piede. Ma quale piede? È il mio, che è il vostro. Piede mio. Insomma, non si doveva vedere la pelle, la carne. C'era sempre una persona, ho sentito dire che era del Vaticano, che controllava sopra in regia durante la prova generale. E se magari si eccitava lui non andava bene per il pubblico. Antonello Falqui ha contato molto perché, insomma, come tutti sappiamo, in televisione insomma, il sex appeal e la creazione, come dire, di un divismo erotico televisivo dipende certo dall'oggetto, ma dipende anche molto dal regista che la inquadra. Un'immagine assolutamente nuova, un'immagine anche, vuol dire, molto internazionale. È un'immagine, come dire, anche che aveva un forte ricambio, perché se pensiamo, insomma, passano pochi anni, in fondo, un lustro, no? Lola Falana è l'opposto delle Kessler. Avete sentito Giorgio Simonelli, professore dell'Università Cattolica di Milano. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia di un uomo e del suo occhio infallibile per scoprire nuovi talenti, della sua capacità di usare al meglio le risorse messe a disposizione dalla RAI, il regista Antonello Falqui. Nella ricetta inimitabile del varietà di Falqui, oltre al gusto dell'immagine, della scenografia e dei costumi, c'è anche un altro elemento fondamentale, la musica, come spiegano il direttore d'orchestra Gianni Ferio e lo stesso Falqui. il sabato sera è diventato storico, il sabato sera musicale. Dico la verità che era un punto di forza per la Rai questo spettacolo. Durante Studio 1 si facevano degli piccoli shorts con il Quartetto Cita, dove facevano delle piccole parodie di film. Si è pensato di fare delle storie un po' più lunghe e quindi abbiamo preso come base i famosissimi romanzi che loro mettevano in parodia genialmente, ma anche con la genialità di Dino Verde. La musica era fondamentale perché raccontava, cioè seguiva il racconto della trasmissione, illustrando con stili che andavano dal musical americano alla musica più attuale. Ho lavorato con dei bravissimi musicisti, Bruno Canfora e Gianni Ferio, e hanno lavorato con me più di 25 anni. Dal dicembre 1957 al maggio del 60, Antonello Falqui dirige 90 puntate del Musichiere. Ascoltiamolo. Il Musichiere! Allora il Musichiere era seguito da un sacco di gente, era un gioco, un quiz musicale. Il successo del Musichiere credo che sia dovuto soprattutto a Mario Riva. Mario Riva era un fenomenale presentatore, un improvvisatore. Tutte le classi sociali poi, no, si occupavano di canzonette, diventavano l'oggetto delle trasmissioni più popolari, il Musichiere oppure Canzonissima, che era una gara vera e propria tra cantanti. Avete sentito il professore Giorgio Simonelli. Oltre ad uno spettacolo di comici e soubrette, Canzonissima è una gara di canzoni che appassiona l'Italia. Ce ne parla l'ex vice direttore Rai Giovanni Salvi ed Enrico Vaime. Pensai ad Antonello Falqui per farne un'edizione elegante con dei personaggi che non l'avessero mai fatta e gli detti Canzonissima. La sigla del 1968 che è rimasta nella storia della televisione, non solo italiana, era cantata da tutti i cantanti italiani viventi in quel momento. Tutti. I cantanti erano spaventati dall'autorità, insomma erano tutti lì zitti buoni. Facevo rigare i diritti tutti e quindi con me non si sono mai permessi nessuna libertà di nessun tipo. La forza di Canzonissima è il modo di dare le votazioni, la possibilità di un risultato di pareggio e le grandi intuizioni di regia di Falqui. Ce ne parla Gianni Ferrio, direttore d'orchestra. Quando c'era per esempio l'orchestra che suonava, lui aveva vicino il tecnico che aveva la partitura mia in mano e lui chiedeva che strumenti suonano per staccare quello strumento giusto, per cui seguiva la partitura con le telecamere, cosa che poi è successa sì qualche altra volta, ma raramente. Con lui sempre. Venendo da un grande successo, l'anno dopo erano già annoiati. Avete sentito Enrico Vaime. Il contesto storico del 69 è grave e si ripercuote nello spettacolo. È l'anno di Piazza Fontana. Ce ne parla Ellen Kessler. Canzonissima nel 69 è stata molto attaccata, che non potevamo ancora parlare bene l'italiano, votate, la parola votate non piaceva come la dicevamo. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Siete contenti? Ve l'abbiamo riportati i vostri rappresentatori Lini Tutto Pepe. Sciogli la lingua. Cosa fanno? Che prendono pure in giro. E quindi noi abbiamo capito che dovevamo lasciare un po' l'Italia e lasciar riposare il pubblico italiano. Figlio di un critico letterario iscritto a giurisprudenza, Antonello Falqui capisce subito che la sua passione non è il diritto ma lo spettacolo. Dopo essere passato per il Centro Sperimentale diventa l'aiuto regista di Anton Giulio Maiano, di Camillo Mastrocinque e di Mario Soldati. Approdato al documentario è tra i primi a realizzare programmi sperimentali per una RAI che ancora deve nascere. Dopo Arrivi e Partenze, un programma di grande successo, il trionfo arriva con Il Musichiere di Garinei e Giovannini. comincia ad affermarsi il metodo Falqui, un senso straordinario dello spettacolo, la ricerca dell'eccellenza in ogni singolo aspetto di un programma televisivo. Ma la televisione soprattutto è un gioco di squadra e allora alla base di questo successo c'è anche un team di fidati collaboratori. Sono Enrico Vaime, autore, Gianni Ferrio, direttore d'orchestra, Walter Antro, cameraman e ancora Maurizio Costanzo, Lelio Lutazzi, Loretta Goggi. Sentiamoli. Non dava gran confidenza a molti, aveva i suoi referenti, ma era molto ascoltato dal personale di studio e da tutti quanti partecipavano alla trasmissione. Ore e ore di riunioni, o qui o nel mio studio, di domenica pomeriggio soprattutto, dalle 2 a... ad libitum, era un continuo parlare, un continuo proporre, un continuo suggerire. Noi parliamo. Si entrava alle 2 e si usciva anche a mezzanotte, all'1, alle 2. Eravamo per contratto costretti a stare in studio. Antonello, inteso come Falqui, delle volte faceva tutto il pomeriggio per fare 3 minuti di balletto. Uno si incanagliva a giocare a dadi, ore. Quando si giravano quelle grandi fantasie musicali o i balletti, noi assistenti stavamo con le sarte un pochino dietro questa selezione, questa scelta, e mi ricordo Antonello che passava appunto in rassegna il papillon, la camicia, la giacca, i pantaloni. Io ho visto Falqui riprendere per un balletto, per dire, il costumista... Tu mi hai portato i bozzetti in sala di riunione, mi hai portato i bozzetti in cui la gonna arrivava qui giù. Adesso perché arriva qua? Era talmente severo da incutere un po' di terrore in tutti quanti, anche in me. Ha fatto piangere tutti. Tutti e tutte, so di pianti di Kessler, di Mina, di gente pazzesca, e ha fatto piangere anche me. Lui faceva ore con la panoramica dei primi piani, uno per uno, a beccare se tutti quanti sapevano il playback bene prima di girare. Come sbagliava uno, tutto capo, quindi tutti in fila fa sto pezzo fino a che non veniva bene il playback e poi si girava. Finivamo le prove, più che le prove anche le riprese, e andavamo a mangiare e spesso venivamo qui da me per giocare. Ma eravamo 5, Falqui, Mina, io, mia moglie, spesso c'era Fernando Ghia che era produttore. Un paio di volte siamo andati a delle vittorie di notte a suonare per andare nei camerini a giocare a poker. Con le fisce, tutto normale. E a proposito, che andava avanti, lui stava sul monitore che gli aveva davanti, la sua testa era sempre questa, così, e il secchiello dell'acqua. Il secchiello dell'acqua, sì, perché per non perdere tempo e per andare avanti e perché, per far sì che le sue idee rimanessero, secondo me, nel suo cervello, doveva fumare. Avete sentito il cameraman Vincenzo Patino? Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24. Oggi raccontiamo la storia di un regista televisivo, Antonello Falqui, accompagnato da un team irripetibile e di spettacoli che hanno lasciato il segno nella storia della televisione non solo italiana. Sabato 16 marzo del 74 sul canale nazionale va in onda Mille Luci, protagoniste Mina e Raffaella Carrà. È l'ultimo grande spettacolo firmato da Antonello Falqui in bianco e nero. Ancora una volta è un successo e un programma indimenticabile. Come raccontano Giovanni Salvi, Falqui e Gianni Ferrio, direttore d'orchestra. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Un giorno di luglio, in un caldo pazzesco, alle 3 del pomeriggio, io ero ancora in ufficio. Squilla il mio telefono diretto ed era Mina. E io ho detto, scusa Mina, che vuoi? Senti, io ti propongo uno spettacolo, però mi assicuri Antonello Falqui. E lui è venuto con l'aria un po' broncia. Ma mi devi dire che vuole? Mi devi dire che vuole? Vuol fare uno spettacolo con Raffaella Carrà? La risposta sua è, e che c'è fuori? Io mi trovai praticamente di fronte a un fatto compiuto. Facciamo questo Mille Luci, perché Mille Luci è secondo me lo spettacolo, uno degli spettacoli forse da un punto di vista così di compilazione di spettacoli, di fattura di spettacolo, forse è, è uno dei migliori, se non il migliore che ho fatto. La Carrà ha dimostrato una grande volontà e una grande bravura. In Mille Luci andò quasi alla pari come gradimento con Mina, che non era semplice allora, Mina era una star. Però la Carrà era un cavallo da battaglia. L'ultima canzone che ha cantato Mina, mia, in televisione, è stato Non gioco più, me ne vado. E quello che ha fatto. Una sera, finita la trasmissione, era qui da me, è partita, perché partiva tardi allora, per andare a Milano, è partita verso mezzanotte, quando è arrivata alle 4 e mezza la mattina, mi ha telefonato e mi ha detto ciao, tutto bene, grazie di tutto, non avevo capito, è stata l'ultima telefonata che mi ha fatto. Non ci siamo più sentiti per 20 anni. L'ha presi molto malamente, anche perché Mina, ripeto, è un personaggio insostituibile, quindi rinunciare a Mina è una specie di tragedia. È stata molto rigida su questo, non ci siamo più sentiti, anche perché, essendo dei timidi sia io che lei, dopo 20 anni non sapremo cosa dirci da su una linea telefonica, e quindi abbiamo evitato di sentirci sia io che lei. È un po' irragionevole la cosa, capisco bene, ma però così è andata. Non gioco più, ti assicuro. Due geni timidi divisi da una telefonata che non arriva. È la fine di un sodalizio artistico che ha poche uguali nella storia della televisione italiana. Ma nell'addio di Mina c'è anche, per una curiosa coincidenza, l'addio al grande varietà in bianco e nero. Di lì a poco, infatti, anche in Italia arriva il colore. Falqui allora capisce che non è più il tempo di quelle geometrie essenziali, di quei giochi di luce sui bianchi, sui neri e sui grigi che hanno fatto grande i suoi varietà. Nella sbornia dei colori ritrovati, Falqui decide che è ora di tornare a un altro suo grande amore, l'avanspettacolo. Il colore influisce nel cambiamento del varietà. C'è l'esigenza di essere variopinti. È l'avanspettacolo. E così negli anni 70 si costruisce un nuovo tipo di performance, radicata nella tradizione popolare di Roma. Antonello Falqui è un punto di riferimento imprescindibile insieme a Gabriella Ferri e Gigi Proietti. Antonello era ed è molto curioso, nel senso che frequenta moltissimo gli spettacoli sperando di incontrare qualcuno di nuovo. Io usai tutti i ragazzi che si erano diplomati, diciamo così, nella scuola che io dirigevo allora. Antonello ne scelse 6 e nacque la Zavorra, che era un gruppo cabarettistico. Avevo fatto uno spettacolo in un piccolissimo teatro in Trastevere, sì. E venne Falqui a vedere lo spettacolo. Gli piacque e mi prese per il suo programma, per cui diciamo non ho fatto un provino, sono stato scelto da lui. Per essere una star bisognava arrivare a Falqui. La meta era, se faccio televisione, se continuo a fare televisione, è lavorare con lui. Avete sentito Sergio Rubini e Loretta Goggi? Ma negli anni 70 non c'è solo il passaggio dal bianco e nero al colore. C'è un paese intero che cambia e che affatica e ritrova la voglia di divertirsi di fronte alla televisione. È un'Italia amareggiata, incattivita, che sembra aver perso l'illusione e la speranza. Ed improvviso Falqui, il grande maestro del varietà, non si trova più in sintonia con i tempi della modernità ed un tratto viene letteralmente estromesso da quella televisione che lui più di altri aveva contribuito a costruire, come spiegano il professore di televisione Giorgio Simonelli, Loretta Goggi e Gigi Proietti. Ad un certo punto si va alla ricerca di un'altra comicità. Gian Domenico Fra, che rappresenta una grossa novità, chiaro, è una comicità aggressiva, pessimista, sbatte in faccia i tuoi problemi, la tua identità, le tue frustrazioni. Credo che col passare del tempo anche il tipo di comicità sia cambiata. Sono usciti fuori questi spettacoli di Trapani dove la comicità era messa dentro senza nessun nesso logico, mentre Antonello, lui cercava un'atmosfera e un ritmo che era per chi si sedeva comodamente in poltrona a guardare la TV. Quindi praticamente Falqui si accostava ad una teatralità di grosso spessore, diciamo. Succede che sono cambiati i tempi di fruizione della televisione. Qui si comincia a chiedersi, ma il pubblico che tempo vuole? Cosa fa davanti alla televisione? Si rompe il monopolio e scende in campo la concorrenza. Cambiano le regole e la disponibilità delle risorse. La RAI si trova impreparata al confronto. In palinsesto si prevedono addirittura 4 spettacoli alla settimana. La TV cambia anche per Falqui. Come spiegano il cameraman Vittorio Pocheschi, il direttore d'orchestra Gianni Ferrio e Luca Falqui, figlio di Antonello. Andava dalla registrazione alla diretta, quindi c'era un cambiamento epocale. Quindi con Antonello Falqui, che era abituato più alla registrazione e quindi a difficoltà alla diretta, dove comunque i tempi si accorciavano. Avevamo cominciato a fare una cosa che doveva essere i divi della TV, se non che abbiamo cominciato e non abbiamo finito, perché a un certo punto ci è stato dato lo stop, improvvisamente, al punto che io sono andato in orchestra la mattina e ho trovato l'ispettore sulla porta, il maestro, è finita la trasmissione. Ho parlato con Antonello e mi ha detto sì, è arrivato l'ordine di sospendere la trasmissione. Tu stai per 25 anni a produrre delle cose considerate le migliori di quelle che vengono trasmesse in televisione e di botto si chiude la trasmissione, arrivederci, perché la vedono troppo pochi, sarà anche una cosa impeccabile, ma lo share prima di tutto. Una volta la televisione era un punto d'arrivo, cioè uno quando arrivava in televisione diceva mazza, sono arrivato in televisione. Oggi la televisione è un punto di partenza. E oggi c'è sempre un tavolo con 4 giurati che giudicano sempre qualcuno dalla mattina alla sera. Ci sono palette ovunque, palette, votazioni, tu vuoi eliminare questo, via questo, fai. È solo quello. Non ci si è più abituato, neanche il pubblico è abituato. Oggi il pubblico si sta disabituando a vedere uno spettacolo dove ci sia solo varietà. Perché è cambiata in molto peggio. Oggi non se lo sognerebbero più uno spettacolo come quelli. Quando fanno delle repliche sembra un'altra televisione, sembra un'altra cosa, non sembra la RAI, capito? Vuol dire, quindi è cambiata totalmente.